Incontri di Gianfranco Fabi. Il mondo se non sbuffa è molto buffo. È un posto fatto apposta per giocare. Per questo appena posso mi ci tuffo. E sono contento, tanto da cantare. Si soffia il vento. E con la musica dell'Albero Azzurro, una fortunata trasmissione della televisione italiana, che comincia l'incontro di oggi. Perché l'Albero Azzurro? Perché Franco Iseppi, che è il nostro ospite, buongiorno e buona domenica Franco Iseppi. Buongiorno. Franco Iseppi è il protagonista, colui che ha creato, che ha voluto, che ha prodotto l'Albero Azzurro e che probabilmente considera questa trasmissione uno dei capisaldi della sua esperienza televisiva, è così? No, è così, nel senso che questo programma è nato a Milano, era un programma di assoluta novità perché nessuno si era occupato allora di bambini in età prescolare, quindi tra i 3 e i 5 anni. Questo ha costretto chi l'ha fatto a studiare molto, perché non c'era letteratura. Insomma, non è... Era un programma pedagogico, un programma educativo, un programma tipico da servizio pubblico, possiamo dire. Sì, aveva un'ambizione che non so se poi si è realizzata in altri programmi, che era quella di non correre il rischio di diventare un programma educativo, perché credo che la televisione debba diventare un'agenzia educativa. Però aveva l'ambizione di diventare un programma istruttorio in qualche modo a una opzione di tipo educativo. Ecco, torneremo poi a parlare di televisione, sì, di programmi, sì, di missione anche della, sì, televisione, però presentiamo innanzitutto Franco Iseppi. Franco Iseppi peraltro è diventato da poche settimane presidente del Touring Club Italiano, complimenti per la nomina. Grazie. E buon lavoro. Ma vediamo un po' la carta d'identità di Franco Iseppi, dove nasce e come è diventato quello che è diventato, uno dei maggiori esponenti, protagonisti di una stagione radiofonica, è stato anche direttore generale della RAI. Come è nato Franco Iseppi e come è diventato appunto un animale televisivo? Ma diciamo che non ho una storia particolare, ho avuto delle fortune particolari. Per esempio mi sono occupato proprio durante il periodo universitario di quel grande progetto che era la costruzione delle regioni. Ti ricordi quando c'erano il comitato alla programmazione economica, io ero un giovanissimo studioso e per esempio lì ho avuto la prima cotta innamorandomi del Po, perché già allora si pensava di fare del Po un canale navigabile, poi non si è fatto, ma in realtà poi subito ho capito qual era la mia strada. Sono entrato credo tra gli ultimi con un concorso come produttore sceneggiatore. Mi ricordo che il mio esaminatore principale era Paolo Grassi, allora, e ho cominciato questo percorso televisivo molto fortunato, nel senso che non è vero che ho fatto quello che volevo, però è abbastanza vero che non ho mai fatto quello che non volevo. Poteva andare peggio. Andare peggio e quindi insomma questa è un po' la strada, ma... Insomma, una strada dove sempre uno magari ha anche delle fortune di incontrare dei maestri. Certo. Ecco, in questo senso, quali sono stati gli incontri che hanno segnato di più la tua esperienza all'interno della RAI? Ma diciamo, prima della RAI c'è una persona che ha segnato molto la mia esperienza, si chiama Giancarlo Moretti, è un ricercatore, uno che è un pochettino più grande di me, che in realtà mi ha fatto nascere la passione delle ricerche. Tu pensi, io ho fatto una ricerca con lui sul consumo, diciamo, tessile delle donne calabresi per Piero Bassetti. La ricerca non è venuta molto bene, però ho avuto questa passione. È uno che mi ha aiutato sostanzialmente a capire che nella vita ci sono anche dei valori, cioè da rispettare, come la tolleranza, come le diversità, come diciamo le culture. Con lui ho fatto dei grandi viaggi che poi nella mia vita mi sono serviti. Se pensi, io sono stato proprio nel 60, un viaggio in Algeria dopo la caduta di Ben Bella, quando c'era tutto ancora questo clima di culturale di Franz, te lo ricordi, Franz Fanon, cioè, Damné della Terre. Sono stato allora in Israele a studiare i kibbutz. Questo tutto per portare poi in televisione queste storie. Quindi diciamo che tutta questa cosa poi mi è servita, perché se tu pensi che questo rapporto era con un signore che quando mi regalava un libro mi dava Margaret Mead, Levi-Strauss, De Martino, Lanternari, tutti i nomi che ti dicono tante cose, magari queste che ci ascoltano meno. Beh, sono forse degli anni 60, che è tutta, certo, una cultura di tipo etnoantropologico, insomma, che ha un po' condizionato, insomma, la mia vita. Questo è, poi l'ho riportato tutto dentro la mia storia televisiva, dove certamente il personaggio più importante che ho incontrato e al quale devo molto è Biagi. Sei stato produttore delle sue trasmissioni, in particolare del Fatto, l'ultima trasmissione. Sono stato produttore, diciamo, delle sue trasmissioni fino al 94, 93-94, quando io poi sono andato a Roma a dirigere i palinsesti, poi le reti, poi la cosa. In realtà io non ho mai, non sono stato curatore del Fatto. Del Fatto con lui parlavo spesso perché è nato in un clima di collaborazione, ma non so se ti ricordi, i primi curatori del Fatto sono stato Gioielli, certo, Chiodi, Varvello, poi è venuto Mazzetti, che è l'ultimo che poi è stato curatore fino alla fine. Però diciamo, il Biagi che io ho praticato per 25 anni è quello di Linea Diretta, è quello della Lunga Marcia, è quello, ecco, di Proibito, cioè un altro Biagi. Incontri. Il mondo, se non sbuffa, è molto buffo. È un posto fatto apposta per giocare. Per questo appena posso mi ci tuffo. Con queste note dell'Albero Azzurro, una nota trasmissione della RAI, Radio Televisione Italiana, riprendiamo il nostro dialogo con Franco Iseppi. Franco Iseppi è stato a lungo dirigente della RAI, è stato anche direttore generale e ultimamente è diventato da alcune settimane presidente del Touring Club Italiano. Ma prima di parlare del Touring Club Italiano volevo concludere il discorso sulla RAI, sulla televisione. Abbiamo ricordato Enzo Biagi, un grande giornalista. Qual è il tratto di fondo, il valore che Enzo Biagi ha portato di più all'interno del mondo dell'informazione, all'interno del mondo della RAI? Ma diciamo che c'è un messaggio di fondo che lui usava per la politica, e diceva: la politica non c'entra con la morale, però senza la morale non si può fare politica. Un ragionamento che può essere applicato anche al giornalismo. E in pratica lui affrontava questo tema con ironia, diceva, vabbè, insomma, in fondo la cosa più importante per un giornalista è la tenacia, e ovviamente quasi come l'intelligenza, ma soprattutto è il rispetto, diciamo, verso il pubblico. Dice, quando un programma non lo capiscono quelli che abitano in paesini di 500 abitanti, o non se ne discute al bar la mattina, non è un programma, un televisivo. Allora, diciamo, l'altra cosa che Biagi credo abbia insegnato come pochi è quella dell'ancoraggio alla cronaca. Cioè, la cronaca è il modo per capire i problemi universali, non è mai un fatto circoscritto. Certo. In fondo aveva una sua modernità, cioè io e non era parlo poi una... con te che sei un maestro, ma Ricordiamoci, di fronte a Biagi nessuno è maestro, è indubbiamente un modo di fare giornalismo in cui non c'era faziosità, c'era solo la volontà di approfondire dei temi, di aprirsi poi alle voci diverse, anche ascoltando quindi voci. Non c'era neutralità, perché non si può fare questo mestiere in questo modo, c'era molta indipendenza. E la gente lo viveva come in fondo l'antagonista vero, diciamo, dei soprusi del potere piuttosto che dei poteri, ma ne apprezzava anche il fatto che lui era un costruttore di appartenenza, sì, sia locale che non locale. Ecco, mi sembra un tributo dovuto, dovremmo parlare a lungo della televisione di qualche decennio fa e della televisione di adesso, però il tempo è anche tiranno e dobbiamo anche guardare al futuro, soprattutto al futuro di Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano, un'associazione che ha più di 100 anni, più di 350.000 soci, mi sembra una delle tradizioni tradizioni storiche italiane, uno dei punti di forza del turismo italiano. Tra l'altro, tra una settimana, il 10 ottobre, si svolgerà una giornata del touring in cui il touring presenterà le sue carte. Ecco, non voglio sapere il programma formale, però qual è l'ispirazione di fondo con cui Franco Iseppi ha accettato questo incarico di presidente del touring? Ma diciamo con la paura di non essere all'altezza di rispettare, diciamo, i principi fondativi che sono all'origine di questa associazione. Questa associazione nasce da una borghesia estremamente illuminata, ha sempre creduto che il turismo fosse una grande forma di rapporto tra culture che avesse una funzione sociale, è nato sulla spinta diciamo unitaria. Avevo un'idea del turismo di una modernità sconvolgente, perché se uno legge lo statuto è uno turismo personale, ecocompatibile, ambientalista, rispettoso delle differenze. Questo nel primo Novecento. Questo nel primo Novecento, quindi insomma in pratica ha anticipato quello che oggi è il turismo più di prospettiva, che è il turismo alla carta, cioè il turismo certo, questo consapevole, sostenibile, quindi... E quindi allora diciamo questo è l'atteggiamento con cui, certo, questo non vuol dire ignorare che in realtà, come tutte le associazioni, subiscono diciamo il logoramento dell'età, delle condizioni, di tutto quello che si vuole, ed è per questo che insomma oggi il touring vuole utilizzare questa storia per riposizionarsi in un mercato del turismo che è molto diverso da quello con il quale aveva a che fare quando è nato. Certo. Ha mantenuto una cosa di fondo, la bicicletta. In fondo nasce per dei cicloamatori che allora con la bicicletta volevano manifestare la grande modernità. Oggi la bicicletta è il segno di uno stile di vita molto moderno, quindi insomma lo strumento di partenza insomma, rimane ancora in termini di significato molto molto forte. Sì, è un ritorno alle origini, però cercando di scoprire poi uno spirito nuovo, uno spirito anche in fondo un po' da business, un po' industriale, un po' di un turismo che è anche un fattore economico importante per un paese come l'Italia. No, assolutamente sì, nel senso che tutti riconoscono al turismo le potenzialità di un settore di grande crescita. I dati di quest'anno confermano che insomma, i turisti ci sono ancora, sono aumentati, certo sono diminuiti magari in alcune zone i fatturati, però certamente quello che denunciano è che il turismo è profondamente cambiato rispetto al passato. Forse oggi bisogna parlare di turismi più che non certo. Di turismo. Bisogna prendere consapevolezza degli errori. Noi siamo un'associazione che ha deciso, per esempio, che il suo futuro è quello di diventare una grande comunità di viaggiatori, sia che siano soci sia che non siano soci. Ha pensato che deve trovare una sua diversa articolazione sul territorio per rispondere meglio a questa domanda di identità che viene da questo paese. È convinta che ha tutte le carte per diventare una specie di autorità morale del turismo, nel senso che noi non saremo mai dei certificatori delle offerte, però valorizzeremo in tutte le esperienze turistiche i suoi aspetti culturali, i suoi aspetti sociali. Certo, infatti il turismo deve modernizzarsi, anche in Italia rischia di essere un po' emarginata dai grandi flussi internazionali di turismo, che però portano un turismo forse un po' mordi e fuggi, anche se mordi e fuggi che magari durano una settimana. Cioè i grandi villaggi turistici, le grandi organizzazioni sono forse un po' estranee alla cultura italiana. È possibile trovare un turismo di massa senza perdere i valori dell'approccio personale al territorio, alla cultura, alle città d'arte? Ma penso che sia assolutamente possibile, intendiamoci, quando non doveroso, nel senso che non so se hai visto in questi giorni questo libro di un tuo collega, che è questo Il bel paese maltrattato. Da lì viene fuori che c'è uno scarto pauroso tra le potenzialità che ha questo settore, dove per turismo si intende sia storia, sia ambiente, sia offerte diciamo di certo. Beni culturali e non culturali, di beni materiali e immateriali, e poi la realtà. C'è questo grande scarto, le potenzialità sono rimaste tutte. In realtà probabilmente la macchina organizzativa, produttiva, di servizi che sta dietro tutto questo non è all'altezza, tant'è vero che questo paese che nel 70 era il paese con più turisti stranieri, certo, del mondo, è diventato quinto, è diventato 18° per appeal. Insomma, non sono rose e fiori, ma le potenzialità esistono ancora tutte. Ecco, potenzialità che andrebbero sfruttate, anche perché è un paese che è capace di attirare turisti, è un paese dove vivono bene anche coloro che vi abitano, quindi gli stessi italiani avrebbero tutto da guadagnare a rendere il loro paese attraente per i turisti, perché potrebbero vivere molto meglio come qualità della vita, come capacità di organizzare la vita, i trasporti, le comunicazioni, anche in fondo la pubblica amministrazione. È questa la modernità che ci vuole. Di fatti quello che dicono gli stranieri è che l'Italia è un paese ospitale ma non accogliente, dove per ospitale si intende che in molte aree, molte zone di questo paese c'è l'ospitalità intesa come valore di rapporto diciamo così, con gli altri, con chi arriva, con i viaggiatori, ma manca l'accoglienza, cioè mancano quei servizi che rispondono alle domande dei turisti, certo, stranieri. Quindi questo è un problema grosso, cioè è un turismo dove la politica dell'ospitalità, insomma, non si può dire che non sia carente. Indubbiamente qui ci vuole forse dell'accoglienza, volevo dire. Sì, certo. Sì. In questo senso ci vuole forse anche un'opera di comunicazione, di far capire anche la stessa classe politica che il turismo è qualcosa di importante per la stessa qualità della vita. In quest'ottica l'esperienza di Franco Iseppi come comunicatore, come uomo di televisione, può essere portata anche in un ambito, in una competenza come quella di presidente del Touring Club? Penso di sì, perché il turismo è una forma di comunicazione e la storia del turismo è un po' come la storia, se vuoi, della televisione, cioè da un turismo, diciamo, di massa, quindi in qualche modo con delle offerte generaliste, è diventato progressivamente un turismo mirato, quindi con delle offerte tematiche, quindi i turismi, e adesso sta diventando un turismo alla carte, come, diciamo, il sistema dei media per merito o per demerito, se vuoi, della convergenza tecnologica. Quindi ci sono delle analogie, diciamo, tra queste forme di comunicazione, dove questa seconda è infinitamente più ricca, certo, perché la televisione, insomma, la vedi e la senti, questa invece puoi usare tutti i sensi che hai come bipede umano. E in tutti e due gli ambiti la qualità diventa il fattore fondamentale. Per la comunicazione, per poter vincere in un'offerta che ormai è sterminata, ci vuole qualità. Poi ognuno può dire quello che pensa sul fattore qualità, così come nell'offerta turistica, nell'accoglienza, nella capacità di offrire la possibilità, appunto, di essere soddisfatti da tanti profili, ci vuole qualità. La qualità è, diciamo, l'elemento che differenzia questo paese da tutti gli altri, non solo nel campo turistico. Noi non siamo un paese che può pensare di fare dei prodotti che competano a livello di massa e a livello di globo universale, quello che si vuole. Noi siamo i paesi che fanno dei prodotti di rara qualità, sia come intelligenza messa nel prodotto, sia come forme espressive, sia come forme distributivi. La nostra storia è una storia di qualità. Ed è una storia di creatività, di capacità di trovare delle soluzioni nuove per dei problemi nuovi. Indubbiamente. È con questa prospettiva che possiamo guardare con ottimismo al futuro della televisione e del turismo? Penso di sì, non solo perché, insomma, l'ottimismo della ragione deve prevalere, ma perché in fondo ci vorrebbe poco per raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo anche un po' volerlo assieme, ecco. Cerchiamo di metterci un po' anche di buona volontà da parte di tutti. Grazie. Niente. A Franco Iseppi, neo presidente del Touring Club Italiano, di essere stato con noi quest'oggi. Ringraziamo Anita Panizza in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.